mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia. Qua siamo nel paranormale, cara Nicoletta. Reflusso, reflusso, questo problema del reflusso, chiamano reflusso, chiamano gastrite, ma insomma instabilità totale, brontolii, cause di gas. Professore, che dica, venga qua, venga un... Arrivo, blocco l'attività endoscopica di reparto e faccia un volo. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ecco, non credo che esattamente la canzone fosse dedicata all'argomento di oggi. No, però. Però calza. Vero? Allora, da qualche giorno le prime famiglie italiane hanno avuto modo di prendere visione del loro nuovo ISEE, l'indicatore della propria situazione economica. È un documento molto importante, lo sapete bene, utile per ottenere prestazioni sociali di vario tipo e prestazioni agevolate. Da una settimana sono in corso di invio da parte dell'INPS le prime certificazioni redatte con le regole in vigore dal 1 gennaio. Il restyling però è stato fatto qualche tempo prima con un provvedimento del 2013, il numero 159. Oggi torniamo nella prima parte di Cuore e Denari a fare un punto della situazione, perché questo cambio di regole per il calcolo, per l'individuazione dell'ISEE, comporta delle sorprese per alcune famiglie sulle quali ha indagato a lungo il Sole 24 Ore. Quindi per queste famiglie la situazione economica sarà considerata diversamente rispetto al passato e non sempre in senso migliorativo. Allora cominciate subito a prenotare i vostri interventi per raccontarci se siete tra coloro che hanno già avuto un primo contatto con l'INPS, se il vostro ISEE è cambiato e se volete vederci chiaro in questo cambiamento. 800 24 00 24 per le vostre telefonate di intervento in diretta. Ma anche noi, Deborah, sì, cercheremo di vederci più chiaro e soprattutto di trovare una spiegazione e una indicazione per quei disturbi di vista che possono insorgere nel corso della vita. A proposito di cambiamenti, cambiano le regole ma cambia anche la nostra vista. C'è ad esempio chi un bel giorno verso i 40-45 anni, prima negli ipermetropi, più tardi nei miopi, si accorge di non riuscire più ad infilare l'ago, a leggere il giornale se non allontanando l'oggetto, allungando le braccia, mettendosi proprio bene sotto la luce. Chi invece deve fare i conti con la presenza di aloni o mosche volanti che attraversano il campo visivo e creano, lo sappiamo, non pochi disturbi e fastidi. Chi si accorge che la guida notturna diventa difficile, faticosa, gli occhi lacrimano, si arrossano, arriva il mal di testa. Allora, se vi riconoscete, chiamateci. Oggi cercheremo di vederci chiaro insieme al professor Paolo Nucci, direttore della clinica oculistica universitaria all'ospedale San Giuseppe di Milano, che ci raggiungerà a partire dalle 11.45. 800 24 00 24 se volete iniziare a prenotare i vostri interventi. Un paese giusto distribuisce equamente il costo delle prestazioni sociali, come l'asilo nido, la messa scolastica o l'assistenza agli anziani non autosufficienti, soprattutto nei momenti più duri. Ecco perché abbiamo riformato l'ISEE, l'indicatore che misura la situazione economica delle famiglie. Oggi l'ISEE cambia migliorando i criteri di valutazione del reddito e del patrimonio e aumentando i controlli per garantire maggiore equità. Un bel vantaggio per le famiglie più bisognose. Nuovo ISEE, semplicemente più giusto. E questo è lo spot promosso dal governo che qualcuno avrà già intercettato in televisione, che annuncia le novità sull'indicatore ISEE. Questo spot, lo avete sentito, si parla di maggiore equità, di un ISEE più giusto, speriamo che sia davvero così. Come dicevamo in apertura, da qualche giorno le famiglie italiane hanno avuto modo di prendere visione del loro nuovo indicatore della propria situazione economica. È un documento che, lo ribadiamo, ci serve per molte finalità, per esempio per calcolare la retta per il nido dei nostri bambini, per stabilire anche la retta dei figli che vanno all'università se vogliamo ottenere qualche sconto, per la nostra carta acquisti, come abbiamo raccontato anche in puntate precedenti. come sapete, l'indicatore della situazione economica delle famiglie è stato al centro di questa importante riorganizzazione, nel senso che sono stati indicati nuovi parametri necessari per calcolarlo. Uno su tutti, la proprietà immobiliare, che peserà di più. Come impattano queste novità? Oggi lo capiremo con Valentina Melis del Sole 24 Ore. Ciao Valentina. Ciao, buongiorno. Benvenuta. Anche autrice anche di un pezzo pubblicato stamattina dal Sole, ISEE, i compensi ai CAF restano bloccati per 6 mesi, una situazione che ha scatenato un bel po' di problemi appunto per questi centri che naturalmente aiutano tutti i contribuenti, soprattutto quelli in difficoltà sul territorio, a elaborare le dichiarazioni dei redditi e tanto altro ancora. E parleremo anche di questo aspetto, ma non solo, con Paolo Conti, direttore generale del CAF ACLI. Buongiorno Conti e bentornato. Buongiorno a voi. Tra l'altro, insieme a Valentina Melis, appunto, il CAF ACLI ha realizzato una simulazione per il Sole 24 Ore per verificare chi vince e chi perde a seguito di questa riorganizzazione fiscale. Allora, la prima domanda, Conti, la voglio fare proprio a lei, poi cominceremo anche a sentire immediatamente gli ascoltatori che ci stanno chiamando all'800 24 00 24, che già testimoniano le ricadute pratiche di tutte queste novità. Giovedì scorso è stata siglata questa convenzione fra CAF ed IMSS. Era molto atteso questo passo avanti. Che finalità ha avuto questa iniziativa, Conti? Ma è quella comunque di garantire la continuità del servizio nei confronti dei cittadini. Noi di fatto avevamo comunque iniziato a lavorare indipendentemente dalla considerazione che ci fosse una convenzione economica stipulata o meno con l'IMSS, però diciamo che giovedì si è chiuso l'iter amministrativo e questo ha dato sicuramente il via ufficiale, non ufficioso, alla campagna della nuova IMSS. Diciamo che era anche un provvedimento necessario per la riorganizzazione dei compensi appunto ai CAF, che sono stati bloccati per qualche tempo. Magari Valentina possiamo anche entrare nel merito di tutto questo, è importante perché i CAF vanno pagati per il lavoro che fanno, molto spesso vengono pagati dai piccoli, dai contribuenti che si rivolgono a loro per i servizi, ma poi hanno anche una un compenso, diciamo, riconosciuto questo, dall'IMSS. Diciamo, la stipula di questa convenzione che sarà firmata nei prossimi giorni dai CAF sblocca diciamo una situazione che nei giorni scorsi aveva appunto reso inoperativi i CAF, perché molti cittadini che si erano appunto recati agli sportelli dei centri di assistenza fiscale sono stati invitati a ripresentarsi entro qualche giorno in alcuni casi, e abbiamo fatto anche noi il giro qui a Milano e in altre città perché si attendeva questa convenzione. In realtà l'INPS che cosa dice? Per 6 mesi si diciamo applicano ancora i compensi che si applicavano dal 2012, poi tra 6 mesi diciamo questi compensi potrebbero essere aggiornati. Una cosa importante che dice la convenzione è che non si possono chiedere contributi agli utenti, cioè per l'ISEE, a differenza che per la dichiarazione dei redditi, i CAF non possono chiedere contributo, deve essere elaborato gratuitamente. Chiaro. Poi sarà l'INPS a riconoscere un compenso al CAF. Mi pare un passaggio molto chiaro, per cui se a qualcuno questo sarà capitato di sentirsi arrivare la richiesta di un contributo appunto per l'elaborazione di questo documento, non era dovuto. Poi magari sul territorio qualche situazione che è sfuggita di mano ci sarà stata senz'altro, ma insomma so che Conti con tutte le organizzazioni dei CAF terranno certamente sotto controllo il quadro. Allora, 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi. Vorrei fare un riepilogo della situazione per capire, visto che ne avevamo parlato anche in una precedente puntata, anzi molte precedenti puntate, avevamo descritto l'ISEE come di un documento, Valentina, che adesso si fa in quattro, nel senso che a seconda della prestazione a cui è finalizzato sarà un documento un po' diverso rispetto magari ad un altro più generico, no? Si fa in quattro. Si fa anche in sei, se vogliamo, volendo. Nel senso che vediamo a spese qua. Che diciamo che nel nuovo sistema in vigore dal 1 gennaio è molto importante che il cittadino individui la finalità per cui deve chiedere l'ISEE. Quindi l'ISEE università, ad esempio, serve a chiedere gli sconti sulle tasse universitarie, l'ISEE sociosanitario serve a chiedere prestazioni di tipo sociosanitario, l'ISEE sociosanitario residenze a chiedere la casa di riposo, il contributo del comune, diciamo, alla retta che l'anziano paga eventualmente per la casa di riposo. Quindi il primo step è capire per quale finalità si chiede l'ISEE, perché questo si porta dietro poi una modulistica particolare, ovvero la dichiarazione federazione sostitutiva unica che va compilata come primo passo per chiedere l'ISEE cambia a seconda della finalità e cambia anche il risultato, perché a seconda, ripeto, della finalità per cui l'ISEE viene calcolato si tiene conto o meno di alcuni componenti del nucleo. Per esempio, vi faccio Facciamo un esempio concreto. Nel sistema precedente, ad esempio, la madre che vivesse da sola con il figlio contava soltanto i redditi, risparmi e la casa suoi. Adesso, se il papà ha riconosciuto il figlio per il quale magari si ha bisogno di uno sconto sulla retta universitaria o della casa dello studente, vanno considerati anche i redditi, la casa ed eventualmente il mutuo residuo del padre. Quindi il nucleo, diciamo, diventa più ampio e anche evidentemente la ricchezza. Esattamente. Quindi il risultato cambierà. Quando voi una settimana fa avete fatto questa inchiesta sulle Sole 24 Ore, chi vince e chi perde con il nuovo ISEE, sostanzialmente cosa avete scoperto? Che gran parte delle famiglie che hanno bisogno di questo documento forse un pochino ci perde? Troveranno sicuramente delle sorprese. Allora, non tutti ci perderanno, ad esempio le famiglie con tre o più figli in alcuni casi ci guadagneranno, perché l'ISEE ha rinforzato una serie di agevolazioni proprio dal terzo figlio in avanti, e altre invece situazioni familiari saranno svantaggiate. Faccio un altro esempio, quello dell'anziano che chiede la compartecipazione della retta per la casa di riposo. Nel caso dell'anziano, e per questa prestazione particolare ad esempio, mentre prima non si considerava il reddito dei figli, se oggi questo anziano ha due figli maggiorenni che lavorano tutti e due, si contano anche i redditi dei figli, e quindi è chiaro che il risultato potrà essere più sfavorevole. Abbiamo calcolato per l'anziano che abbiamo considerato noi che si può passare da 30.000 euro di ISEE a 41.600. Certo, e di conseguenza l'eventuale sconto di una retta è chiaramente più ridotto. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Vedo già anche qualche domanda al 349 238 6666, con una verve evidentemente polemica. L'Elio di Novi scrive: il nuovo ISEE terrà conto che da quando mio padre ha lasciato tre appartamenti ormai invendibili e con inquilini che non pagano, mi sto impoverendo. Tutto sommato, insomma, questo è un patrimonio che nel portafoglio di l'Elio c'è, però poi tutto il resto purtroppo non viene considerato. Ecco, per certi aspetti forse è vero che ci sono degli elementi di iniquità che non si sono forse adeguatamente considerati. Conti, torno a lei. Lei proprio al Sole aveva dichiarato che sono partite le prime domande dopo che l'INPS ha aperto i canali per la trasmissione. Siete voi CAF che state trasmettendo le domande all'INPS per conto dei contribuenti? Come sta avvenendo questo procedimento? Le chiedo se è fluido, se sta avvenendo tutto senza difficoltà, e se invece le difficoltà vi sono, dove sono? Ma guardi, ci sono le difficoltà che si incontrano tutte le volte che si parte con procedimenti amministrativi nuovi e soprattutto con procedimenti amministrativi che vanno a far dialogare tutta una serie di banche dati. Diciamo, siamo partiti attorno alla metà di gennaio e nelle prime trasmissioni dei dati che abbiamo fatto nei confronti dell'INPS abbiamo avuto qualche criticità, c'erano una serie di risposte con errori, con incongruenze. Diciamo che le stiamo sistemando man mano e nel proseguo ho fiducia che tutto il processo fili via abbastanza liscio. Tenete conto che la novità grande è che noi non certifichiamo più i redditi, ma certifichiamo tutta una serie di altri dati. Poi l'INPS va a riprendere i dati reddituali direttamente dal collegamento con l'Agenzia delle Entrate, cioè iniziamo a far funzionare lo Stato tutto insieme, e dunque non andiamo a richiedere al cittadino dati che sono già in possesso della pubblica amministrazione. Questa è la prima volta, per cui la grande novità è anche questa. Qualche difficoltà iniziale di collegamento, ma a prescindere, diciamo, proprio dal procedimento amministrativo che va seguito per compilare questo documento, le domande che invece vi fanno i contribuenti che si rivolgono a voi, quali sono le aree un po' di incertezza delle famiglie che hanno bisogno di elaborare l'ISEE? Le aree di incertezza derivano dal fatto che noi avevamo uno strumento che era rimasto inalterato nei 16-17 anni precedenti, per cui aveva generato una abitudine, una conoscenza di un certo tipo. Il nuovo ISEE di fatto è una cosa completamente diversa. Valentina prima ha spiegato, per esempio, che per ogni prestazione oggi abbiamo valori ISEE diverse, prima invece c'è un unico ISEE che valeva per tutte le prestazioni agevolate che si potevano richiedere. I nuclei familiari sono cambiati, ci sono tutta una serie di indicazioni diverse, per cui la difficoltà più grande in questo momento qui è fare capire alle persone che quella che era anche la documentazione che avevano prodotto fino al 31-12 è una documentazione che spesso va integrata con tutta una serie di notizie che invece prima non erano richieste. Perché magari, che ne so, proprio per una casa di riposo uno aveva bisogno di questo documento a novembre e dicembre, e adesso magari, insomma, deve anche stare attento se la struttura accetta un documento di questo tipo, che può anche avere il diritto di considerare incompleto. Peraltro a fine mese cominceranno a scadere tutta una serie di prestazioni, dalle riduzioni sulle tasse universitarie al rinnovo appunto della carta acquisti per arrivare alle iscrizioni scolastiche. Si rischia la paralisi delle agevolazioni, Valentina? Andiamo incontro ad una fine del mese, poi tra l'altro mancano pochissimi giorni. Ormai allora, ci siamo. Non facciamo terrorismo. Allora, no, nel senso è che sicuramente ci saranno un po' di criticità, cioè i CAF che abbiamo visitato già ci hanno raccontato un po' che i contribuenti sono, i cittadini sono un po' spaesati di fronte a certe novità, no? Già il fatto di dover recuperare i redditi, la casa del compagno separato e non convivente è una novità. Diciamo che e anche la seccatura, parliamo. Diciamo che non ci agevolano. Ecco. Quindi bisognerà sicuramente, come diceva il dottor Conti, avere una fase di rodaggio. Ci sono anche le iscrizioni alle scuole, che mediamente i primi di febbraio sugli asili nido e insomma molti comuni hanno messo la scadenza a febbraio. Quello che noi possiamo consigliare è questo: siccome l'ISEE non arriva impacchettato pronto in una busta a casa nostra. Così rispondiamo a una nostra ascoltatrice che appunto ci chiedeva. Voleva così? Sì. Invece, noi facciamo queste proposte, chissà mai, no? Nel cambiamento magari. Il 7:30 arriverà più o meno precompilato, ecco. Puntata di domani in vista di Telefisco, quindi, come dire, drizzate le antenne. Nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie magari domani arriverà anche l'ISEE pronto. Chissà. No, per il momento, ecco, quello che possiamo dire è di non scoraggiarsi se magari all'INPS non si trova nessuno che lo compila, perché all'INPS rispondono: ah, ma c'è internet, si può calcolare, si può elaborare, compilare la dichiarazione sostitutiva online. Quindi se si hanno problemi eventualmente, perché non è molto semplice compilarla da soli, ci si può rivolgere ai CAF, che al più tardi all'inizio della prossima settimana dovrebbero essere operativi, essendosi sbloccata la convenzione, oppure insomma farsi aiutare in qualche modo. E secondo me il primo consiglio è, ripeto, mettere a fuoco la prestazione per cui si ha bisogno e raccogliere tutti i documenti, perché poi sono tanti e quindi magari uno si trova poi ad avere pochi giorni. Certo, le difficoltà vanno messe in conto, perché è un sistema che dopo 17 anni cambia radicalmente. Era consolidato, ovvio. Qualche ritardo e qualche difficoltà sono da mettere in conto. A tal proposito, a proposito dei documenti con i quali è necessario presentarsi belli pronti per compilare questo documento, ce n'è uno che è quello che ostacola più di tutti, che è l'estratto conto bancario, perché è necessario anche indicare durante la trascrizione dei dati, durante la compilazione, la voce giacenza media sul conto corrente, che sta mandando già in tilt molti dei nostri ascoltatori. Allora i nostri ascoltatori stanno naturalmente chiamando il nostro numero verde 800 24 00 24. Ci state scrivendo dei messaggi, c'è un po' di polemica sui messaggi, adesso leggeremo anche loro, anche questi messaggini. Ma Rosario intanto è il primo ascoltatore della puntata di oggi di Cuore Denari. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci. Io avevo alcune perplessità in questo senso. Sono nel caso di dover presentare l'ISEE con sono separato da mia moglie, però abbiamo entrambi la residenza nello stesso domicilio. Ora c'è un primo problema, che è quello di privacy, perché io o lei magari non ha interesse in questa fase di separazione di divulgare alcune informazioni che potrebbero essere utili per altri fini. E l'altro problema è chi dei due deve presentare l'ISEE, visto che il nucleo familiare non esiste più per legge. E poi, in caso di omessi dati o dati errati forniti da uno dei due, chi è responsabile? Certo. Quello che l'ha presentato o quello che ha fornito i dati sbagliati? Cioè, mi sembra che siamo davanti a un paradosso. Allora Rosario, si fermi lì, intanto ci può spiegare perché cosa le serve l'ISEE, perché magari può essere un'informazione utile per i nostri ospiti, per mandare un bambino a scuola, per le tasse universitarie di mia figlia in primo di cui si incarica lei, immagino, perché se ci ha fatto la domanda sull'ISE evidentemente In realtà questa è un'altra delle discussioni che tra due coniugi separate intervengono, perché anche qui ci sono condizioni che sono state sancite in atto di separazione che non sono ben chiare. Certo. Ora io me ne occuperei io, però vorrei almeno avere il vantaggio di pagare in funzione del mio reddito, del mio reddito reale, dei miei costi reali. Certo. Perché in realtà in fase di separazione mi accollo la buona parte dei costi di una famiglia e in più devo pagare di un reddito, come se avessi un reddito che è integro. Certo. Facendo anche Rosario, la sua situazione è molto a noi è chiara, esatto, non so se ai fini ISE lo è altrettanto, non è come dire un caso standard al quale dare una risposta in automatico. Allora, propongo, facciamo così, sì, ci prendiamo un attimo di pausa, sì, andiamo Valentina a sentire, ci pensano un attimo, noi andiamo a sentire i mercati, certo, poi ritorniamo subito dopo insieme con Rosario, ma con tutti gli ascoltatori di Cuore Denari che stanno scrivendo, mandando messaggi, ci state seguendo su Facebook, a tra poco. Cuore e Denari. Occhi neri, assoluti e sinceri, occhi organi delicatissimi che noi non siamo abituati a curare con la dovuta attenzione, affidandoci troppo spesso a soluzioni fai da te. Ci sono invece dei segnali che non dobbiamo trascurare, e soprattutto dobbiamo fare attenzione a quei disagi che avvertiamo ma con cui impariamo a convivere per pigrizia, per così, per tirare avanti. Qual è l'ultima volta che avete controllato la vostra vista e se l'avete fatto? Qual è stato il motivo che vi ha spinto ad andare dall'oculista? Gli oculisti insistono da anni sull'importanza di effettuare controlli anche in assenza di sintomi sospetti. Anche gli occhi, ricordiamolo, hanno bisogno di prevenzione, di terapie su misura, di attenzione particolare, proprio come qualsiasi organo del nostro corpo. Sapete ad esempio che anche l'occhio ha una sua pressione che va misurata, perché al pari della pressione arteriosa la pressione oculare può trasformarsi in un fattore di rischio per la salute della nostra vista? E lo sapevate che esiste una relazione tra consumo di carne rossa e sovrappeso e salute della retina? Nella seconda parte della trasmissione, partendo proprio dalle vostre domande, che vi invito a prenotare sin d'ora, cercheremo di raccogliere tutte le informazioni per tenere d'occhio la salute della nostra vista. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheel. Ecco, sarà anche un documento importante, ma non è affatto easy il nuovo ISE, Valentina, sempre per utilizzare questi giochi di parole che naturalmente ci vengono piacciono. Offerti su un piatto d'argento dalle colonne sonore scelte dai nostri collaboratori, dai nostri ragazzi. Allora, parliamo di questo documento, delle nuove modalità richieste dal fisco per la compilazione, e abbiamo sentito che la compilazione è un terreno irto di ostacoli. Ci siamo lasciati su un caso abbastanza complicato del nostro amico che ci ha chiamato da Vicenza, Rosario. Allora, dicevamo, non un caso standard al quale poter dare una risposta lineare. La prima domanda che ci siamo fatte con Valentina Melis è intanto capire se la separazione fra queste due persone sia definitiva, perché è importante, certo, questo elemento. È importante perché in pratica il secondo, il coniuge, diciamo così, non viene incluso nel nucleo soltanto se ci sono determinate condizioni, e per esempio quella della separazione giudiziale o omologata dal giudice, o del divorzio, o del fatto che per esempio un coniuge abbia un'altra famiglia, determinano delle condizioni diverse. Se però appunto c'è soltanto il fatto che le due persone non convivono più nella stessa casa, ma come dice l'ascoltatore hanno la residenza nella stessa casa, a mio avviso, ma Conti forse potrà essere più preciso, i redditi andrebbero considerati complessivamente tra quelli del papà e della mamma, insomma. Come suggerirebbe Paolo Conti a Rosario di muoversi se venisse in uno dei vostri sportelli? Beh, guardi, il signor Rosario ha una condizione particolare, perché anche se fossero effettivamente separati con l'omologazione, il fatto che siano residenti nello stesso nucleo familiare di fatto li riattrae di nuovo, per cui è una situazione molto particolare. Teniamo conto che la nuova ISE tiene in considerazione un concetto di famiglia molto più allargato rispetto a quella che avevamo nel... Me lo raccontava proprio Valentina Melis a microfoni spenti, che probabilmente un po' questa riorganizzazione vuole anche far pesare di più queste nuove famiglie italiane. Conti, esatto, nuove non tanto, esatto. Però... La società civile negli ultimi 20 anni è cambiata molto, per cui abbiamo tantissime famiglie di fatto che però non, dove le due persone non risiedono nello stesso, sotto lo stesso tetto, ma hanno per esempio generato un figlio insieme. E in questo caso, mentre prima si teneva in considerazione solo il reddito del soggetto che aveva con lui il bambino, residente con lui il bambino, oggi si attrae all'interno di quel nucleo anche il genitore, l'altro genitore, anche se questo risieda da altre parti. Per cui, cioè, cambia la società, cambiano le regole. Esatto, in questo senso qui sì, per cui guardi, io non so se l'ISEE è uno strumento più giusto o meno giusto, sicuramente oggi è un po' più moderno, nel senso che ha considerato tutta una serie di condizioni che si sono evolute negli anni. Massimo da Milano ci dice che ci scrive che è un aumento della pressione fiscale nascosto e mascherato. E vuole sottolinearlo. Noi diciamo che leggiamo il messaggio di Massimo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non siede qui. Abbiamo Monte Rosa, facciamo altro, noi spieghiamo quello che c'è, cercando di gestire queste problematiche nuove nella piena consapevolezza. Detto questo, proprio per completare il discorso su Rosario, gli farei intanto definire con la moglie la questione del domicilio residenza, se vuole cristallizzare la sua situazione e capire bene che tipo di documento deve fare. Conti, diamo un flash finale. Assolutamente sì. Nel momento in cui mantengono la stessa residenza, di fatto la separazione si vanifica ogni tipo di iniziativa. Esatto. Vorrei sentire subito Diana, Nicoletta da Milano, perché mi dà l'opportunità di introdurre uno dei temi più controversi relativamente alla... Ti dà un assist. Un assist, perfetto. Vero? Ti come piace quando tu lo dico? Io lo dico poco perché ha troppe S, ma comunque... Diana, benvenuta. Buongiorno, grazie. Ci dica. Dunque, no, volevo solo far notare che nel 2010 il Comune di Pero, in provincia di Milano, ci ha chiesto sia l'ISE dei due figli di mia madre, quindi di mio fratello, sia la giacenza media del conto corrente di ciascuno di noi, perché mia madre voleva richiedere un contributo per la casa di riposo o alternativamente un accompagnamento. Chiaro. Già, e quindi lei dice perché l'avete... perché l'avete rappresentato come una novità. Adesso cercheremo di capire in che misura rappresenta una novità il fatto di dover indicare la giacenza media del conto corrente, appunto, nella modulistica necessaria per compilare l'ISE. Allora, Valentina, per evitare errori ed inesattezze, noi suggeriamo naturalmente di avvalersi di un professionista di queste tematiche. C'è invece anche chi, come segnalavi tu su questa inchiesta del Sole di settimana scorsa, si avventura. Katie Mandurino, la nostra collega, ha fatto la prova di appunto collegarsi al sito IMSS e per farlo per sé e per la sua famiglia da sola. Primo, si incontrano diversi ostacoli, ma quello certamente più problematico è quello dell'indicazione della giacenza media del conto corrente nell'ultimo anno considerato, perché intanto trovare questo dato sull'estratto conto è mission impossible. Se vai a chiedere questo dato alla banca ti chiedono 40 euro solo per rilasciarti questo certificato. E poi che cos'altro ci vogliamo aggiungere? Adesso ci aggiungiamo che il sistema, se uno si ferma per calcolare la giacenza media, noi abbiamo provato, dopo un po' di inattività il sistema ti fa uscire, quindi devi ricominciare. Quindi questo vuol dire che dobbiamo avere tutti i documenti lì intorno a noi sul tavolo, perché... Sì, perché in realtà anche provando da soli a fare la DSU sul sito dell'INPS è meglio avere tutti i documenti e i numeri già a portata di mano. Questo numero qua dove andiamo a prenderlo? Allora, adesso c'è una circolare dell'ABI in base alla quale le banche, insomma, se si adeguano alle direttive dell'ABI, dovrebbero dal prossimo estratto conto, quindi al più tardi da marzo, indicare questo dato in maniera renderlo facilmente reperibile. Esattamente, perché molte banche lo mandano, l'estratto conto di fine anno ce l'ha questo dato, solo che è contenuto in 20 pagine e vallo a trovare, no? Invece adesso l'ABI dice alle banche mettetelo in un foglio magari unico che sia chiaro questo elemento. Un'altra strada è questa, prendere gli estratti conto che arrivano per ciascun trimestre. Alla fine praticamente di questi estratti conto ci sono i numeri creditori totali, c'è proprio un numero che si chiama così. Si prendono i 4 numeri creditori totali praticamente, si sommano per coprire i 365 giorni dell'anno e poi si divide il totale, che è un numero enorme, per 365. Questo è il calcolo della giacenza media. Chiaramente bisogna avere gli estratti conto sotto mano, andare in fondo e trovare questi numeri e fare questa operazione. E insieme alla giacenza media va indicato anche il saldo a fine anno, quindi quello al 31-12, certo, dell'anno precedente, altrimenti appunto ci si può far aiutare o dalla banca, certo, o dal CAF. Ricordiamo che questa novità, perché rispondiamo a Diana, noi abbiamo sempre detto che precedentemente andava indicato per l'ISE, magari ritorno con conti su questo punto, l'estratto conto di fine anno, no? E c'era il furbetto del quartierino che azzerava tutto il conto proprio magari a dicembre per dimostrare al fisco che lui sul conto non aveva nulla, per cui poteva ottenere appunto un ISE più favorevole per le prestazioni necessarie per le quali faceva richiesta. Questa novità di indicare la giacenza media ha voluto un po' scovare questi furbetti, no, conti, e quindi in che misura rappresenta una novità oggi? Perché Diana dice, a me me l'hanno già chiesto il comune in passato. Di Pero era già avanti, perché molti comuni proprio nel momento in cui dovevano erogare prestazioni agevolate e essendo oramai un prodotto l'ISE che andava avanti dal 98, aveva già evidenziato tutta una serie di escamotage che qualche furbetto aveva messo in atto, e qualche comune più virtuoso aveva adottato delle, si chiamavano ISE di prestazione, cioè erano ISE che poi partivano dal modello base e venivano ad avere tutta una serie di correttivi, per esempio contemplando già l'adeguamento media del conto corrente, contemplando già una parte dei redditi dei figli e nel momento stesso in cui c'era la richiesta di una casa di riposo. È sull'insieme di tutti questi comportamenti adottati dai singoli enti locali poiché il legislatore anche si è appoggiato per ottenere invece una norma uguale in tutta la nazione che portasse a evitare tutta una serie di comportamenti, certo, scorretti. Beh, allora, c'è chi ci vede lungo a proposito di vista. L'assist per la prossima parte di Cuore Denari. Chiudiamo solo un flash. Luciana da Milano, senza farle intervenire, ha due figli all'università per cui ha fatto ISE ad ottobre. Deve rifarlo con queste nuove disposizioni? Valentina, è possibile che le università magari chiedano integrazione? Secondo me deve rifarlo. Ah. C'è un flash che possiamo dire, se la prestazione che era richiesta, diciamo, ha una che è stata richiesta calcolando un ISEE a fine anno, ha una durata magari semestrale che si prolunga, certo, in quest'anno, non va richiesto. In tutti gli altri casi, cioè in cui la prestazione si chiede nuovamente, certo, da gennaio, va ricalcolata. Io direi che per non saperne leggere né scrivere chiediamo all'ente per il quale l'ISE lo stiamo compilando, quindi Luciana che chieda magari all'università, lo so che è una seccatura, però se siete attenti e queste novità in giro le notate, allora andate fino in fondo e quindi almeno evitiamo tanti problemi. Ci ritorneremo certamente su questi argomenti. Grazie Valentina, buon lavoro. Grazie a voi. Dottor Conti, buona giornata anche a lei, buon lavoro. Grazie soprattutto a voi dei CAF che avrete delle belle file adesso. Carissimi. Allora noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, poi ritorniamo subito dopo insieme per la seconda parte di Cuore Denari in cui cercheremo di vederci chiaro. Cuore e denari. Lei ha la mortua? No, sono scapolo. Lo sa che qui è questore di Cornea? Senta, cominciamo a parlare bene. Le ho detto che sono scapolo. Non parliamo di Cornea. Per me le cornea in chiamata. No, io non ho cornea per niente. Mi dico, lei è presbite miope o astigmatico? Io sono palermetano. Bene, quindi miope? Di mamma. Ci siamo. Papà era etiopico. Da piccola mi facevano ridere sino alle lacrime, e invece oggi ci aiutano a introdurre il tema della seconda parte della trasmissione, che oggi è proprio dedicata alla salute dei nostri occhi. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Paolo Nucci, professore di oftalmologia all'Università di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Lei ci aiuterà oggi a capire come prenderci cura dei nostri occhi, della nostra vista. Parleremo quindi dei segnali sospetti, dei controlli da fare, ci aggiornerà anche sulle novità della correzione di disturbi visivi. Intanto 800 24 00 24, vi ricordo il numero per intervenire in diretta, oppure come state facendo potete anche scriverci al 349 238 6666. Poi c'è Facebook, c'è Twitter, con Deborah terremo tutto sotto controllo. Professore, l'occhio è l'organo di senso e la sua struttura tante volte è stata paragonata ad una macchina fotografica, o meglio noi abbiamo costruito la macchina fotografica copiando quello che la natura aveva già inventato. In ogni caso quello della visione è un meccanismo complesso, e se le immagini ci appaiono così come le vediamo è merito, direi, di un lavoro raffinato e di squadra che ha proprio nel cervello la sua cabina di regia. Insomma, vediamo con il cervello più che con gli occhi. Assolutamente. Assolutamente sì. L'occhio, come ha detto lei, in realtà è stato il template su cui si è formata la macchina fotografica. Noi abbiamo una struttura periferica che è la sclera, che diciamo è il contenitore di tutte le attrezzature che ci servono per mandare a fuoco l'immagine sulla retina. La retina è la parte più pregiata, più particolare, ed è sulla quale si raccolgono le immagini come se fosse una pellicola di una macchina fotografica. Poi esistono gli obiettivi sono la cornea, la prima lente, la parte superficiale, tra l'altro anche la parte più sensibile del corpo umano. C'è un diaframma che è l'iride, che regola l'apertura di questo diaframma, che è la pupilla, e subito dietro c'è il cristallino che ci permette ulteriormente di focalizzare queste immagini, che devono cadere perfettamente a fuoco sulla retina. Se questo non succede, le immagini sono sfocate. Ma quello che diceva lei è molto importante. In realtà noi con l'occhio scomponiamo tutto ciò che vediamo, cioè di un'immagine noi vediamo i contrasti, vediamo le linee verticali, le linee orizzontali, vediamo la profondità, vediamo i colori, ma poi l'integrazione di questo messaggio è tutta a carico del cervello, cioè tutti questi messaggi scomposti arrivano fino al cervello, che poi le integra e crea l'immagine che noi percepiamo. Quindi il meccanismo è estremamente complesso. Quello che è utile dire è che ancora oggi noi non siamo in grado di riuscire a costruire un occhio artificiale, perché noi saremmo in grado di costruire una macchina che legge il messaggio verticale, che legge la luminanza, che legge i contrasti, che legge il bianco e il nero, che legge il colore, ma quello che poi difetta è come noi integriamo a livello cerebrale tutte queste immagini. È un discorso, un tema molto affascinante, sì, che sta appassionando anche i nostri ascoltatori, tanti gli interventi all'800240024, ma professore, io direi, se lei è d'accordo, di seguire un po' l'anatomia dell'occhio, e partirei quindi dalla sclera, il cosiddetto bianco dell'occhio, no? Che è la membrana più esterna e credo anche quella più robusta, soprattutto quella che abbiamo più sott'occhio, di cui più facilmente intuiamo il benessere e il malessere. La sclera si arrossa e a volte avvertiamo una sorta di bruciore, fastidio, capita quando siamo stanchi, lavoriamo troppe ore al computer, non proteggiamo i nostri occhi adeguatamente dai raggi del sole o dal vento, o ancora quando la sclera si infiamma, o l'occhio rosso, diciamo noi, o un inizio di congiuntivite. Sa, professore, che noi siamo molto veloci, no? Soprattutto per quanto riguarda la vista, farci l'autodiagnosi. L'ultima parte è proprio corretta, è perché la sclera di per sé è una struttura avascolare, come diceva, molto robusta ed elastica, ma è avascolare, per cui se noi vediamo il rossore nell'occhio, il rossore in realtà dipende più dal lenzuolo che noi abbiamo su questa sclera, che è la congiuntiva, che invece è piena di vasi, di cellule, che secerano per esempio le ghiandole lacrimali o componenti delle ghiandole lacrimali. Quindi quando noi vediamo l'occhio rosso, mediamente è la congiuntiva che si inietta, che si riempie di sangue, e questo non è sempre un elemento negativo. Vuol dire che l'occhio, quando si infiamma, in realtà sta cercando di portare più sangue, e questo più sangue a volte è positivo, perché cerca di allontanare le tossine o comunque tutti quegli enzimi che possono in qualche modo determinare una sofferenza dell'occhio. Quella è la congiuntivite, e la congiuntivite può essere di diverso tipo, può essere una congiuntivite, quella più frequente è per esempio quella allergica. Noi molto spesso abbiamo l'occhio arrossato perché c'è qualcosa nell'aria che ci dà fastidio. Molto meno frequente quella batterica, che generalmente si accompagna non solo al rossore, ma anche ad un secreto, ad una secrezione che generalmente è catarrale, è mucosa, è giallastra, e non è pus come noi pensiamo a volte, ma è proprio una raccolta di materiale. Il mattino, mucoso. Sai, Deborah, sì, che magari cose che tu dici, mi sono svegliata con gli occhi un po' appiccicati, non tu, ma in generale. Stavo pensando al scientifico termine marchigiano che si usa per descrivere questa cosa qua che compare negli occhi. Come si dice? La bicicchia. La bicicchia, ecco. È la bicicchia, non so se il professor Nucci conosce, esatto, questo termine, ma devo dire che rende benissimo. Diciamo che il termine più popolare è la cispa, però dirò, guardi, io quando gioco con i bambini che vengo gli dico che se hanno le caccole negli occhi, guardi che questo ha molto successo come termine. Allora, se avete le caccole negli occhi, chiamateci all'800240024, ma raccontateci anche qual è il disturbo visivo che vi dà fastidio, quello che trascurate, quello con cui avete imparato in qualche modo a convivere. Noi seguiremo l'anatomia dell'occhio, occhio e dopo la sclera arriviamo alla cornea, trasparente, curva, proprio come un vetro d'orologio. È la prima lente naturale che la luce incontra e la sua forma e la sua trasparenza sono fondamentali per la visione. Se la cornea ha dei difetti, ahimè, bisogna attrezzarci per correggerli. Allora c'è chi usa gli occhiali, che le lentine, o chi decide di buttare gli occhiali alle ortiche e quindi di affidarsi alla chirurgia rifrattiva, tema che affronteremo nel corso della nostra trasmissione. Ma dato che la puntata di oggi vuole sottolineare quelli che sono i disturbi che noi spesso tendiamo a trascurare, gli errori più comuni che commettiamo, io vorrei subito chiedere al professor Nucci quali sono i segnali che una persona che ha un disturbo refrattivo non deve sottovalutare. Mi faccio dire qual è il segnale più tipico di chi ha un problema sulla cornea. Sì. Lei sta parlando della cornea, allora io le dico che quando c'è fotofobia, cioè quando c'è un intenso fastidio di fronte alla luce, lì vuol dire che la cornea in qualche modo è interessata. Quindi quando c'è un segnale di fastidio alla luce particolare, lì vuol dire, okay, che la cornea è probabile che sia lesa. Cuore e denari. Non noti qualcosa di strano in me? L'ho notato qualcosa di strano. Però sono cambiato, guardami. Ah, hai ragione, cosa c'è? Ma non ho più gli occhiali e questa è la cosa strana in me. Oh, è vero. E come mi trovi? È schifo. Ma dai, ma cosa dici? Guarda che secondo me sto molto meglio, soprattutto con le donne. E torniamo a parlare della salute della nostra vista, in linea con noi il professor Paolo Nucci. Professor Nucci, ci siamo lasciati con la luce oggi in questa puntata in cui sottolineiamo i disturbi visivi a cui prestare attenzione, per i quali consultare il medico. Lei ci ha lasciato prima del GR dicendo: attenzione, quando la luce ci dà molto fastidio c'è un problema sulla cornea. Eccoci. La fotofobia è il segno principale di una sofferenza corneare, quindi è molto importante che noi facciamo attenzione a queste caratteristiche, anche perché le lesioni corneari devono essere viste dall'oculista, per cui una fotofobia che si protrae per qualche ora conviene che venga vista dall'oculista. Quindi fotofobia vuol dire che gli occhi bruciano e lacrimano, non si riesce a tenere gli occhi aperti, o basta un leggero fastidio? Insomma, deve essere non il leggero fastidio, ma qualcosa di più importante che non ti consente di stare con gli occhi aperti davanti alla luce. Professore, ci sono persone che hanno dei disturbi visivi e quindi li correggono utilizzando le lenti, gli occhiali o le lentine, oppure c'è chi sta pensando, ce lo sta scrivendo, di affidarsi alla chirurgia refrattiva. Qui dedicheremo, immagino, una puntata proprio, certo, specifica, perché il tempo oggi è un po' tiranno. Quali sono gli errori che chi porta gli occhiali commette più frequentemente o sottovaluta? Non ce ne sono in particolare. Tenga conto che quando l'occhiale non è giusto e il paziente non è soddisfatto della propria visione, generalmente ritorna dall'oculista, si fa seguire anche dall'ottico e stabilisce qual è la migliore correzione. E ci possono essere sicuramente delle difficoltà per chi porta la lente a contatto. Un abuso di lenti a contatto, per esempio, utilizzarle per molto tempo, per molte ore di seguito, non consente a quella struttura di cui dicevamo prima, la cornea, di continuare a nutrirsi nel modo adeguato, perché la cornea, come diceva lei, è trasparente perché non ha dei vasi. Se io utilizzo e abuso di lenti a contatto, le lenti a contatto generalmente depauperano di lacrime l'occhio, le lacrime, c'è disciolto l'ossigeno. Io spero che mi stia ascoltando mio figlio, che adesso è ad Hong Kong, perché lui è un abusatore di lenti a contatto. Vede, perché c'è sempre quella cosa del... Anche io ho questo scheletro nell'armadio, dottore. In realtà è la donna di denari che parla. Ho sentito, si sente il rumore della moneta. No, le stavo dicendo che teoricamente la cosa migliore è svegliarsi al mattino, mettere le lenti a contatto, andare al lavoro, ma poi trovare una pausa di un'ora, un paio d'ore all'ora di pranzo per poterle togliere. Questa è la cosa sana che consente a chi porta la lente a contatto di portarle per molto tempo. Adesso la controllerò. No, ma io l'ho combinato in passato questo disastro. Adesso le uso solamente per la palestra, uso le usa e getta, diciamo, però al vezzo dell'occhiale, e mi piace. Allora, prima di dare la parola a Maria Carla da Pescara e a Ugo dalla provincia di Genova, professor Nucci, anche chi non ha disturbi visivi e quindi non ha bisogno di occhiali si rassegna all'idea che con l'età la vista peggiori. Forse per questa ragione tendiamo anche a trascurare alcuni segnali che invece dovrebbero spingerci a consultare il medico. Io vorrei che lei ci aiutasse ad individuarli, perché sono, anche i dati lo dicono, ma insomma noi la vista non la proteggiamo in modo adeguato, tendiamo ad andare dall'oculista solo quando abbiamo un problema e quindi, mentre ci sono delle patologie oculari che all'inizio del loro decorso sono asintomatiche. C'è poi il fatto che noi di occhi ne abbiamo due, allora uno compensa l'altro, un po' come succede per i reni, e questa è una straordinaria opportunità, ma può essere anche un'arma che, no? Certo, perché se chi ha due occhi che funzionano generalmente non si accorge se c'è una piccola perdita in uno dei due. Sì. Io posso suggerire forse un piccolo test molto banale da utilizzare a casa per chi ha sopra i 60 anni, che è una cosa che conviene fare regolarmente. Sì. Utilizzare un foglio di carta a quadretti, fare un puntino in mezzo, questo puntino in mezzo deve essere fissato monocularmente, quindi con un occhio bendato, e continuando a fissare il puntino che noi abbiamo fatto su questo foglio di carta a quadretti, cercare di percepire se i quadretti rimangono delle stesse dimensioni, se si stortano, se scompaiono. Questo è un test che ha messo a punto Amsler, che era un oftalmologo di un centinaio di anni fa, che serviva ad individuare precocemente i segni delle maculopatie, che sono malattie purtroppo estremamente frequenti, anche perché la popolazione sta, come dire, invecchiando, e questa è una patologia tipica dell'età avanzata. Professore, invece intorno ai 40-45 anni, in quella fascia, diciamo dai 40-50, che cosa bisogna fare attenzione? Ci aiuta con un test di autovalutazione, oppure dobbiamo ricordarci magari di... No, direi di no, quella è l'unica fascia che è un po' subdola, è la fascia nella quale l'oculista per esempio riesce a rendersi conto se c'è un valore della pressione alto e quindi un rischio di glaucoma, e quando ci sono dei segni particolari, anche se la pressione rimane dentro valori normali, è bene eseguire un esame del campo visivo, che è un esame che va eseguito con dei macchinari specifici di cui tutti gli oculisti dispongono e che ci permette di riconoscere prestissimo il glaucoma, che oggi è una malattia che, mentre 20 anni fa portava invariabilmente verso la chirurgia, oggi si riesce a risolvere in più dell'80% dei casi con dei farmaci adeguati, tra l'altro che cominciano ad essere anche veramente dei farmaci molto maneggevoli. Allora, Deborah, andiamo dai nostri ascoltatori. Abbiamo inquadrato un po' la situazione. Il professor Nucci, come sempre, è stato molto chiaro. Dove andiamo? Pescara, Genova? Andiamo a Pescara, cominciamo con Maria Carla. Cominciamo qua, abbiamo il centro Italia. Buongiorno a tutti. Sempre molto affezionato. Benvenuta, ci dica. Buongiorno a tutti. Allora, professor Nucci, io 12 anni fa ho subito un intervento laser per la miopia che ha dato, devo dire, è riuscito perfettamente, ha dato ottimi risultati. Qualche anno fa ho cominciato ad ospitare, non volendo, questi puntini neri che si muovono e che sono un problema quando leggo. Io sono una grande lettrice e, insomma, questa cosa crea qualche problema. Grazie Maria Carla, perché rispondendo a Maria Carla, professor Nucci fa l'amplen. Ci sono tantissime domande su questi puntini neri, le mosche volanti, poi cercheremo di capire se le mosche hanno qualche cosa di diverso dai lampi, di luce. Professore. In termini tecnici si chiamano miodesopsie e, per la verità, sono estremamente comuni e, devo dire, bisogna imparare a tollerarli, per una ragione molto semplice: l'occhio ha una struttura chiusa e per questo è anche una struttura privilegiata. All'interno dell'occhio c'è una sostanza che è un gel che si chiama vitreo, che è molto simile come consistenza all'albume dell'uovo. Se io aprissi il guscio d'uovo e cercassi di asportare una piccola parte del bianco, probabilmente se ne verrebbe fuori molta di più di quella che io inizialmente pensavo di togliere. Ecco la difficoltà oggettiva di andare ad asportare anche chirurgicamente queste mosche volanti. In più, nel momento in cui noi violiamo la struttura oculare, rendiamo l'occhio più fragile. Allora, un conto è se c'è un distacco di retina, se c'è un problema importante visivo, ma se il problema è la mosca volante, più noi lasciamo integra quella struttura, meglio è. Questo è quello che io ragionevolmente mi sento di consigliare, anche in quelle situazioni in cui il fastidio comincia ad essere rilevante. Di sicuro dietro le mosche volanti ci possono essere fatti molto banali, come per esempio una dieta dimagrante, una forte disidratazione in un certo periodo, che possono comportare una costrizione di questo albume d'uovo che lo si coarta, si restringe, quindi queste mosche cominciano a volare. Altre volte sono delle piccole emorragie all'interno della retina, ecco perché è importante verificarlo. Altre volte invece questo è un preludio a problemi retinici più importanti, per cui è un problema banale, comune, ma non va trascurato ed un controllo oculistico va fatto. Però purtroppo bisogna un po' rassegnarsi. Bisogna diamo un nome ad ogni moschina, che così ce la rendiamo amica. Adesso c'è la Pina, è arrivata Ginetto, no? Nicoletta, questa credo che me l'abbia rubata, perché gliel'avevo detta una volta che ci siamo. Ecco, per questo. No, allora no, è del professor Nucci. Mi piace perché io ho iniziato a usarla. Rivendica la paternità. Lui è un po' padre, io un po' madre. Sì. Facciamo un figlio, è okay. Una sorta di professor Nucci. Lei ha parlato della dieta. Sì. E io vorrei parlare anche del peso, perché ci sono delle ricerche che mettono in relazione il peso, o meglio il sovrappeso, e la vista. Di recente uno studio dell'ospedale pediatrico Bambino di Gesù di Roma, ma anche in precedenza delle ricerche avevano proprio sulla popolazione adulta individuato una relazione, quindi più pesi più i tuoi occhi rischiano. È un problema di peso diversi. O di dieta? Sono due studi diversi. Uno, quello sull'American Journal of Epidemiology, che parla del rischio maggiore di degenerazione maculare in chi mangia carne, è effettivamente uno studio che ha coinvolto moltissimi pazienti e devo dire ha una discreta credibilità, si tratta di 21.000 pazienti. Quello che è stato prodotto dai bravissimi colleghi del Bambin Gesù in realtà si riferisce ad una popolazione, francamente mi auguro che sia una piccola popolazione, sì, veramente, perché si tratta di bambini che dovrebbero già a 11 anni avere delle alterazioni del calibro dei vasi in relazione allo stato di obesità. Beh, io spero che sia una popolazione molto, molto selezionata, certo, di bambini con gravi problemi, perché se noi pensiamo che davvero l'obesità, che è un problema, come dire, che riguarda una grandissima parte della popolazione, comporti già delle alterazioni del calibro dei vasi che poi predispongono a delle trombosi retiniche, perché poi di questo si tratta di una precocissima anomalia molto simile alla retinopatia ipertensiva, vorrebbe dire che noi fra qualche anno ci troveremo con un mondo di pazienti, certo, con trombosi oculari. Quindi devo dire che guardo con interesse questo studio, ma con un pochino di scetticismo, perché credo che la popolazione sia veramente molto selezionata. Professor Nucci, a proposito di bambini, i controlli per gli occhi dei nostri bambini e soprattutto anche in questo caso, bambini che noi notiamo si avvicinano molto allo schermo, si piegano sul tablet, lamentano di vedere male alla lavagna o che tornano a casa con gli occhi arrossati, una mamma che cosa deve fare? Ma guardi, io sono del parere che quanto più si vanno a ricercare degli elementi specifici che ti orientino verso la visita all'oculista, tanti più se ne trovano se uno è attento, tanti meno se ne trovano se uno non è molto molto attento. Allora la mia idea è che un bambino comunque a 3 anni, se non è andato dall'oculista, ci debba andare. Una visita oculistica a 3 anni è obbligatoria, un'altra visita prima dell'inizio della scuola a 6 anni è un altro passaggio fondamentale. E poi certo, quando una mamma percepisce, perché lei sa che le mamme hanno una percezione dei problemi che va al di là di tutti, quando una mamma percepisce che c'è qualcosa di insolito nel comportamento del proprio bambino, una posizione viziata, un atteggiamento troppo ravvicinato ai giochi eccetera, allora in quel caso ha un senso andare dall'oculista, anche se si sono già passati questi due controlli, che sono un bel cut-off. Se veramente tutta la popolazione riuscisse a portare i bambini a 3 a 6 anni, noi avremmo fatto un grande passo avanti verso la salute oculare per il resto della vita. Un bel cut-off, l'ha definito il nostro professore. Prof. Allora, abbiamo telefonate, messaggi, cosa volete, cosa preferite? Andiamo da Ugo? Sì, poi sai che c'è il domandone che interessa a me, che ho intercettato tra gli sms. Dai, facciamo prima quella. La faccio subito. Sì. Professor Nucci, allora qua c'è un bel dilemma di un ascoltatore che lamenta il fatto di non vedere mai i soldi. Qual è il suo problema? Chiede, come lo possiamo aiutare? Abbiamo degli occhiali di Harry Potter da suggerire o lei ha una ricetta, una cura diversa? Guardi, io adesso non vorrei vorrei dare un messaggio un po' pericoloso, però si lanci. I miei figli li ho mandati tutti e due all'estero, una a Madrid, una a Hong Kong, quindi andate figlia dall'Italia, perché non vedo grande positività. Ma noi l'avevamo tanto presa per vedere, scherzando, ma per diciamo vedere in che modo ottimista la come futuro, ma molti... tanti. Esatto. Allora andiamo da Ugo. Certo. Buongiorno Ugo. Ugo, dove è andato? Ugo, ti ricordi il film di Troisi? Ugo, Ugo, sì. Allora noi passiamo da Maurizio. Maurizio, benvenuto. Vedi, cioè, Ugo ci ha lasciato. Maurizio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei è Maurizio, vero? Non è Ugo? Sì, da Livorno. Maurizio da Livorno. Allora, Maurizio. Allora, io sono praticamente miope dalla nascita, quando avevo 3 anni, e mi piacerebbe operarmi. Tuttavia il medico al quale mi sono rivolto mi ha garantito la riuscita dell'operazione mediante l'utilizzo del laser, sì, su un occhio, ma non su quell'altro. Volevo semplicemente chiedere quali sono le ultime frontiere in quanto a correzione chirurgica della miopia. Certo. E se sono affidabili. Grazie, grazie per la domanda Maurizio. Professor Nucci, uno degli interventi più gettonati con il laser è quello proprio per la correzione della miopia. Maurizio non ha avuto, no, una garanzia di risultato al 100%, perché ci sono anche per questa operazione la selezione del paziente è molto importante. Non tutte le miopie possono essere corrette dal laser, è corretto? Certo. Alcune miopie particolarmente elevate hanno una correzione parziale. Se questa correzione parziale persiste anche dopo la chirurgia con l'anisometropia, cioè con la differenza tra un occhio e l'altro che sia rilevante, probabilmente ha fatto molto bene il collega a non suggerire il trattamento. In alcuni casi invece la controindicazione nasce dallo spessore del tessuto corneale. Se noi abbiamo una cornea troppo sottile e il difetto refrattivo è importante, non si può scavare più di tanto la cornea, quindi i rischi che poi dopo l'intervento ci siano quei fenomeni di offuscamento, di abbagliamento, di cui se ne è parlato tantissimo in questi ultimi anni, ci sconsigliano di andare verso l'intervento chirurgico. Quindi direi che io ho sempre molto rispetto verso i colleghi che sono attendisti e che non prendono, come dire, subito sotto gamba l'intervento refrattivo, che è un intervento efficacissimo, è un intervento che oggi si fa con molte più garanzie rispetto a 15 anni fa ed è un intervento però che va fatto su una popolazione selezionata, quindi fidatevi molto degli oculisti che vi pongono dei problemi, perché evidentemente hanno fatto un'accurata valutazione dei costi e dei benefici. Ci scrive un ascoltatore per dirci che per vedere i soldi quindi bisogna guardare lontano, no? Miopia, che presbiopia, un po' meno drastico. Da vicino, per lontano. 800 24 00 24. Abbiamo prima di Alba, professor Nucci, l'intervento per la correzione della miopia, sì, può essere fatto a partire da che età? E ci sono dei limiti d'età in avanti che lo sconsigliano, lo rendono magari inadeguato? Beh, sicuramente l'intervento per la miopia, se di miopia parliamo, va fatto quando la miopia si è stabilizzata. Noi tutti sappiamo che la miopia ha un periodo di incremento che è in larga parte legato all'attività ravvicinata. Per esempio uno studente tipicamente ha un'evoluzione della miopia superiore e ce l'ha per un tempo più prolungato. Quindi quando l'oculista valuta che il difetto refrattivo è rimasto stabile per 1 o 2 anni, da quel momento in poi si può fare l'intervento, ma bisogna stare molto attenti. Dietro l'intervento di chirurgia refrattiva, anche per la miopia, la possibilità di regressione del difetto è sempre dietro l'angolo. Che significa regressione? Sì, che noi possiamo avere un piccolo rebound, un piccolo rimbalzo della miopia che ritorna fuori. E in più, oltre a questo, c'è da tenere conto che alcune miopie nel tempo continuano a crescere anche se tu hai registrato un plateau, un periodo di stabilità per alcuni anni. Questo è noto, quindi non bisogna prendersela con il medico se dopo 5 anni ritorna lo 0,75, ma è tornato dopo un anno, era evidentemente ancora in una fase di crescita che, seppur è ragionevole a 20 anni, probabilmente lo è anche a 35-40 anni, quindi la miopia in realtà continua ad evolvere perché l'allungamento del bulbo il rinforzo, diciamo, dalle strutture oculari con meccanismi accomodativi purtroppo continua anche dopo. Quindi il periodo in cui è veramente stabile il difetto, sì, e questo laser straordinariamente preciso riesce a fare un perfetto lavoro che però duri tutta la vita, non è ancora possibile. Allora, Alba dalla provincia di Macerata e poi Achille da Brescia. Alba, buongiorno. Alba, il primo non funziona, non lo so, mai. È la linea 4. Achille, oggi, buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Chiudiamo a voi in bellezza con Achille. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno Achille, ci racconti rapidamente così il professore riesce a darle una risposta. Allora, il mio ragazzo di 28 anni, due settimane fa, due martedì fa, ha preso una pallonata, ecco, in pieno viso, in particolare nell'occhio destro. Ha avuto un versamento di sangue, è andato in pronto soccorso e dopo due giorni l'hanno ricoverato perché la pressione era molto alta, arrivava a 51, sì, con forti dolori e così via. Sì. È stato messo, è ancora ricoverato, è tornato a casa, con allora, quale indicazione? Il ragazzo è ancora ricoverato, sì, i professori lo stanno seguendo, gli dice che deve avere pazienza, la pressione è costantemente oltre i 30, con punte la sera anche a 40-43, sì. Adesso da due giorni a questa parte ha meno dolore, come dolore di testa e così via. Certo, però il dottore dice: io non vorrei operarti perché purtroppo hanno già tolto loro hanno tolto il sangue, però dicono che vorrebbero aspettare un po' prima di procedere all'intervento e magari scongiurarlo. Achille, professor Nucci, dei traumi dovremmo dedicare una puntata. Però questa è una storia abbastanza, ecco, tipica. Quando c'è un trauma diretto, soprattutto nella camera anteriore, cioè la parte più anteriore, molto spesso c'è una recessione dell'angolo, cioè l'angolo iridocorneale, che è la parte dove filtra l'umore acqueo, per cui l'occhio rimane di pressione costante, a volte viene proprio leso da questo grosso impatto. Sì. Hanno fatto bene a rimuovere il sangue, che era la cosa più immediata. Si sente di tranquillizzare in un secondo? Che il fatto che comincia ad esserci meno dolore è un segno sicuramente buono, e trovo anche molto ragionevole che non subito si effettui un intervento per glaucoma, perché è giusto che ci sia il suo tempo. È un esito comune e non certamente drammatico. Grazie al professor Nucci per il tempo che ci ha dedicato. Scriveteci, intanto noi dobbiamo salutarci. Ci chiudiamo in camera Caritatis a preparare la trasmissione di domani, che sarà come sempre molto avvincente. A domani, grazie.